Ma ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarezze, che bellezza quando brilli e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, e buongiorno a tutti, bentrovati, buon lunedì da Caffè e Paglia, il contenitore sportivo di Radio Città Fujiko, con ampia storie legate allo sport e di vittorie, il Bologna che vince, Antonelli, il pilota di Bologna che vince, Sinner, il tennista che tanto piace a Simone, che vince, il baseball che è in semifinale nel mondiale italiano, che vince. Vincono tutti. La Lazio. Ma tutti a chi? Simone. Ma mi si pia per il culo, ma tutti chi? Andate a cagare, voi che vincete, andate a cagare. Okay. Voi che vincete. Grazie, c'è Simone, grazie, è tornato sì. Anche, avete già sentito la voce del nostro regista, lo ringraziamo, lo salutiamo. La Lazio che vince. La Lazio che vince. Gli amichetti suoi, capito? Gemellati. Sai che il regista aveva la febbre, no? La scorsa settimana era malato. Gli è passata dopo Lazio-Milan. Gli è passata direttamente. Perché se Milan-Lazio fosse andato in un altro modo, secondo me la febbre rimaneva. Sottolineiamo che i tifosi della Lazio sono tipo 6 mesi che contestano e svuotano lo stadio, tranne per la partita di ieri. Guarda, Mingo, ho preso un'acqua a Milano sabato. Che la febbre comunque ci poteva anche stare. Pioveva, cioè, pioveva talmente tanto che ho preso l'acqua dentro San Siro, che non mi era mai capitato, che è coperto. Io, ho preso l'acqua. Io sempre presente qua, tipo la squadra peggiore d'Italia, ok? Okay. Vabbè. Dobbiamo ancora presentare la stella della trasmissione. Siamo già lì che state taraghigliando. La stella della trasmissione è in grande forma, puntuale. Cosa che incredibile. crea questo hype nella puntata di quest'oggi, veramente incredibile. E quindi lo salutiamo almeno. Fio, buongiorno. Un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori. Un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, ragazzi, mi raccomando, rimaniamo tonici. Sì, cioè, non disperdiamo tono. Fio. Infatti, non a caso, scusa Dado, non a caso hai sentito che non ho citato tra i vincitori di questo fine settimana al Como. Non l'ho voluto citare per non creare zizzania subito all'inizio. Bravo, Mingo, bravo. Andrai a Roma in trasferta? Certo, certo. Tra l'altro abbiamo adottato per una via di sobrietà, cioè anziché recarci con una vettura station wagon tedesca di 7-8 anni che non dà nell'occhio, andremo con un furgone 9 posti, pieno di Braga, che è il modo migliore per... Vabbè. Comunque sì, siamo molto in forma, molto in forma. Molto in forma, bene, questo è l'inizio della puntata, per fortuna, della San Benedettese, ne parleremo nel calcio internazionale, quindi Simone... Tra un'oretta, non ti preoccupare. Se vuoi toglierti il giubbotto magari lo puoi anche fare, essendoci 40 gradi dentro lo studio, però buttiamoci dentro la puntata di quest'oggi che vede il ritorno alla vittoria del Bologna. Allora, il Mapei Stadium, già Stadio Giglio, città del tricolore, Reggio Emilia, perché ricordiamo che Sassuolo non esiste, non ce ne vogliono gli amici di Sassuolo, ma chi sarebbe gli amici di appunto, bravo, vedo che hai capito perfettamente, e ha molti pregi ma un difetto. Il difetto principale è che ci gioca il Sassuolo e il settore ospiti, in occasione di una partita di cartello come quella del Bologna, arrivava a 39 euro, che a Reggio Emilia è pari al pranzo completo di due persone con vino abbondante. Con l'abbondante vino della casa. Della casa, che 7-8 anni fa, un Sassuolo Inter, settore ospiti, 60 euro. Ecco, è affascinante questa dinamica per cui campano sui tifosi ospiti. Quando gli conviene, diventiamo partita di cartello. Ora, il Bologna arrivava lì dopo una prestazione da notte europea contro la Roma, giovedì, dopo l'ultima puntata, noi eravamo già abbondantemente andati in onda, in cui il bicchiere era mezzo pieno, lo possiamo dire. La prestazione del Bologna è apparsa convincente, il pareggio finale è quel risultato che ti tiene lì sul brivido. Il campionato però non ti aspetta, continua. Quindi la domenica ti lascia con questa classica partita trappolone, calendarizzata dall'algoritmo che gestisce la delinquenza della Lega Serie A alle 15 di domenica, perché c'è questo andazzo così quando c'hai questi big match di giochi la domenica alle 3, per cui sai che devi affrontare quella partita con del turnover e sai che quella partita non va presa sotto gamba mai. Esatto, ed è tra l'altro sfida di classifica, perché le due squadre sono in questo momento erano prima della giornata molto molto vicine con anche la possibilità di superare il Sassuolo, poteva superare il Bologna nel caso di vittoria ovviamente. Il Bologna gioca bene il primo tempo, diciamo con la Roma si è rivisto un po' di Bologna, diciamo così, dei tempi che furono, dire, tre mesi fa. Esatto, tanto tempo fa, tre mesi fa. Con una buona partita giocata bene, fisica, con un arbitro che ha permesso il gioco fisico, è vero che ha avuto lo stesso metro, quindi comunque il metro è stato quello. Dopo però aver ammonito per proteste al 13° l'unico diffidato in campo, che era il nostro Juan Miranda. è vero, c'è stata anche questa caratteristica. Bisogna anche essere fortunati. Esatto, beccare proprio quello, devi essere fortunato. No, ma lui non lo sapeva, ha detto io questo lo ammonisco, era lui. E il Bologna parte con tanti cambi rispetto all'ultima alla partita di Coppa a Sassuolo e si rivede subito un bomberone, cioè ha fatto un gol da bomber, un'azione da bomber vero. Vabbè, sì, che è il quinto in campionato, che gol è? Il secondo, e il quarto in stagione. Ah, in stagione, scusami, in stagione. Forse se va avanti così riesce a raggiungere il gol che faceva Fabian nell'arco di una stagione, 3-4, forse, no? Grande gol. È bello però, dai, no? Non ti è piaciuto? Normale, girata. Di un centravanti, che un centravanti deve saper fare se vuole fare il centravanti di una squadra di Serie A. E no, partiamo dalle basi. Quando si vince col Sassuolo va sempre bene. È come quando si fa un punto a Roma o a San Siro, va sempre bene. Poi abbiamo già parlato male abbastanza della maglietta del Sassuolo, ma non abbastanza di quella della Roma però. Perché tu mi devi dire che cosa c'entra quell'arancione inutile? Cioè quell'arancione proprio. La maglia che. Mi ricordo c'era un negozietto vintage a San Benedetto che vendeva tutte queste t-shirt dell'Adidas. So, ricordi gli anni 90 quando andava di moda le magliette d'Adidas, che coi corni che si vestivano. Le rock band si vestivano spesso con le magliette, con gli acetati di Puma, di Adidas. Questo urbano degli siamo anni 90. Siamo quella cosa che sì, però sì. Se una squadra di calcio è così non ha modo di esistere, a mio punto di vista. Vabbè, la Roma. Col Bologna e mi voglio collegare perché ho detto Roma, perché mi collego direttamente a giovedì prossimo, dove so che Andrea Dimico vai pure tu. Controllo tutto da un ristorante di pesce. niente maritozzi, guardo la partita lì vediamo, perché ripeto, se c'entro un quarto di finale di Coppa è già la stagione diversa, cioè, no? Sì, il periodo brutto è passato, è stata un'annata in cui l'italiano stava quasi per perdere il senso della stagione, ma è riuscito a rimanerci dentro. E le sensazioni sono che la Roma non sta benissimo, che viene da una brutta sconfitta, di cui poi adesso andremo a analizzare i concetti. Non sta benissimo, decima sconfitta in campionato. Appunto, cioè non sta benissimo. Non sta andando benissimo, sta andando neanche benissimo. Gasperini, secondo appunto, me. Appunto, esatto. Cioè, e quindi c'è la possibilità per il Bologna di trovare un senso a questa stagione che un senso non ce l'ha, e vediamo come va, anche perché, e qui faccio un mea culpa, in realtà il Bernardeschi sta bene, il gol che segna contro la Roma è davvero bello, è da notti europee, e il Bologna, come anticipavate voi, sembra aver ritrovato perlomeno la strada di casa, ma non ancora quei ritmi, quel possesso, quell'andare sulle fasce in velocità per andare ad allungare bene il gioco, quel pressing abbastanza furioso sul terzo settore avversario, deve ancora ritrovare bene tutti i meccanismi, però mi aspetto una bella serata. È partita in cui, sì, come dice Italiano, il 51% deve essere dato alla Roma, gioca in casa, certo. Però 49 vuol dire che tu hai le tue possibilità di giocarle, e in questo sono d'accordo. Volevi aggiungere qualcosa su Sassuolo? Sì, tornare a Sassuolo, una questione. Dallinga segna perché tira. E quindi se nel reparto avanzato del Bologna ci si prendesse più la responsabilità di tirare in porta, se secondo me aiuterebbe un po' il morale della squadra e proprio anche la manovra, perché comunque perdere un possesso perché l'hai tirata in faccia a uno in curva sud va bene, perché comunque hai smosso da davanti e li fai ripartire dal portiere, e intanto però hai preso consapevolezza dello spazio dello spazio della porta avversaria, e quella cosa la devi fare, la devi fare. E il Bologna è diventato un po' stitico. Ottima osservazione di Fio. È diventato un po' stitico nel cercare la conclusione, non il generico e memetico rischiare la giocata di Bernardeschi, non solo quello, proprio cercare la porta avversaria. Talvolta lo stesso problema anche l'Inter, cincischia invece di tirare, magari di concludere, il passaggio in più perde il pallone, però insomma. Volevo aggiungere che questo è un discorso che si può allungare, si deve allungare anche fino a giù, fino alla Serie C, avete capito, infami maledetti, cioè se non tiriamo in porta è impossibile riuscire a fare qualsiasi cosa. Comunque ripeto, mi aspetto una gran bella, loro faranno uno stadio a festa. Sì, Mingo, lo stadio. Mingo dice spesso una cosa che mi piace sottolineare, non bisogna, è uno stadio, come lo definisci tu, che non devi far accendere. Sì, esatto, la squadra avversaria non deve far accendere l'Olimpico quando è pieno e carico, ovviamente è uno stadio che spinge, può anche creare problemi, ecco, è uno stadio che sa essere positivo e anche negativo nel suo, non mi sembra il periodo, può essere più, può essere più, ma esatto, può anche un problema talvolta, eh? Spesso, però non è questo il periodo, nel senso, è vero che ci sono state le sconfitte, però il campionato della Roma è comunque un campionato che deve definire, in questo momento è sesta, no? La Roma fino al 3-1 di Roma Juventus stava volando, poi è crollo, sta crollando. Quella è stata, ieri è stato preso a pallate il signor Gasperini. Sì, sì. Tra l'altro bruttissimo il gesto di non stringere la mano a Fabregas, con tutte le ragioni che poteva avere Gasperini, gli ha sempre fatte queste cose, però rimane il gesto secondo me brutto, Simone. Aspetto, secondo aspetto me qui siamo già in atmosfera top 5 e lì avrei molte cose da dire sulla partita di ieri, ma non solo io, fortunatamente se ne accorge anche il mainstream, perché in Sicilia si dice che il cane morde sempre il più stracciato, ma quando per caso ogni tanto morde altrove qualcuno ci butta un occhio, vabbè, e parliamo parli dell'espulsione di Wesley, del secondo giallo a un giocatore che non commette fallo per sostituzione di persona, reato gravissimo. Bisognerebbe fare una puntata speciale di Caffè Paglia, speciale arbitri. Perché quest'anno ne stanno facendo di ogni. Voi non guardate abbastanza la Serie C, fidatevi. Che ne fanno di peggio. Oh. Dici. Dove non c'è il VAR, però. No, in realtà c'è ed è a chiamata tipo NFL. Il problema è che hanno a disposizione la stessa identica immagine che ho io a casa, cioè quella unica. Si collegano, diciamo, su Facebook. Il margine d'errore aumenta in questi casi. Però c'è la chiamata, ce n'hai due a fine per tempo. A fine dell'anno l'AIA dovrebbe fare un comunicato di scuse verso tutte le squadre di Serie A, tifosi compresi. Sì, è una raccolta fondi anche per... Comunque... note negative di Sassuolo, sì, ce ne sono tre, sono tre infortuni in scala ascendente, di Lollo, De Silvestri, che sente tirare durante un incredibile affondo sulla fascia destra che proprio non vedevamo da anni, e neanche lui vedeva da anni così tanto campo davanti a sé, e infatti poi ha murato, e Nicola Moro è quello più serio di tutti, di Lukas Skorupski. Non c'è ancora comunicazione ufficiale della società, però lui su un'uscita fuori area di testa ad allontanare un pallone, una roba che non è proprio nella sua faretra, non è l'uscita tipica di Skorupski, quando pensi a Lukas che esce, no, non c'è quella cosa, e saltando con il ginocchio sinistro in alto sente tirare la coscia a destra, quindi rendendo il finale della partita ancora più emozionante, nel senso che il Bologna aveva finito le sostituzioni, il portiere era evidentemente con dei problemi, si fa stringere una fasciatura nel ginocchio. A un certo punto, almeno io l'ho ascoltata per radio, non so se è confermato, Castro dice vado io. vado io in porta. Lo dice anche Pobega. Anche Pobega. Sì, e lì avevamo già immaginato un Pobega che le para tutte, ma l'ultima la para 8 metri fuori dall'area, quindi rimaniamo in 9. In 9, direttamente. E a quel punto andava Castro, che però si faceva autorete. Castro era un po' piccolino per fare il portiere. Delle due, Pobega lo vedo più strutturato. Sì, però sai, questi piccoletti sono scattanti. Ci avrebbe la gara. Magari più bravo nell'uscita bassa. Ah, quello sapere, sicuro, quello sapere. Sicuro, quello sicuro. Comunque, per fortuna, il Sassuolo non è riuscito ad approfittare di questo momento in cui insomma l'ultimo il recupero e la fine della partita, diciamo così, aveva appunto Skorupski in porta fermo, un palo, una sedia, tipo una roba del genere, e per fortuna, perché avremmo perso altri due punti in maniera insomma un po' particolare, cosa che abbiamo fatto durante la stagione, perché se vai a vedere poi la classifica del Bologna con quei 2-3 punti in più, che comunque tra quelli che hai buttato via, tra quelli che potevano esserci, anche quelli derubati o derubati, insomma, una cosa del genere. Ovviamente saresti lì a lottare per il settimo posto in questo momento, cioè quello che è davanti, quello che è sopra, che potrebbe non essere potrebbe non portare in Europa nella situazione attuale, perché c'è una semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, e essendo in questo momento settima l'Atalanta e nona addirittura credo la Lazio, la vittoria di una di queste due toglierebbe il settimo posto come obiettivo Europa. Dall'altra parte Inter e Como, che invece essendo nelle prime sei ampiamente, diciamo che in quella zona lì dovrebbero finire, libererebbero il settimo posto per l'Europa. Però l'importante, e mi sembra questa la cosa che possa rendere questa stagione un po' meno scalcinata, un finale di stagione dignitoso. A Bologna ne abbiamo visti tanti di finale stagione indecorosi. Con la canna da pesca, così proprio tranquilli, estivi. Sì, ce n'è uno in cui a 42 punti siamo retrocessi, anche per dire, i 42 punti attuali, in uno di quei finali di stagione terribili. Quelli, vabbè, c'era anche il telefono che ogni tanto squillava, non c'era il VAR, ma c'era un supervisor, diciamo così, sopra, che decideva alcune cose. Però sta di fatto che insomma finire bene la stagione passa ovviamente, e cambiare anche un po' il finale, il gusto della stagione, passa da giovedì con la Roma, ottavi di finale, se passi a quel punto sei arrivato ai quarti di finale, anche economicamente, visto che comunque l'Europa vale. Più passi, più vale, più punti fai, più vale. Fa status, cioè il tuo nome comincia a circolare ai piani alti di un trofeo magnifico, secondo me, il secondo più importante messo in palio durante la stagione calcistica. Cominceresti ad incontrare, adesso non so chi c'è di là da parte del Lilla e Aston Villa si giocano il passaggio del turno. L'Aston Villa ha vinto la prima a Lille 1-0, c'è cioè il ritorno a Birmingham. Comincia a essere, no? Interessante, anche perché poi sono anni che sentiamo che le squadre italiane tendono a sottovalutare l'Europa League, che per alcuni è un peso. Antonio Conte è sempre felice quando viene eliminato da qualche torneo europeo. Lasciamo stare. Sì, lo conosciamo benissimo. Stiamo ancora pagando. Lo conosciamo bene, però non ho mai capito bene questo ragionamento, perché, ripeto, quella è l'Europa League. Cioè, è un trofeo molto, molto, molto, molto, molto importante, anche molto bello da vedere giocare. Quindi, ripeto, io per giovedì mi aspetto una bella partita, e sarebbe bello rifare una festa, anche un po' più piccola, ma sarebbe bello rivedere le immagini dell'anno scorso, di 2 anni fa. Quindi se il Bologna passa il turno, Mingo gioca con una tra Lille e l'Aston Villa. Aston Villa potrebbe tornare, l'Aston Villa che ormai è diventato un classico, un grande classico. Bologna-Aston Villa. Quanti ne hai visti? Se passa il Lille, scordatevi la trasferta in Francia. Facile. E invece per quanto riguarda Birmingham, una città di cui ormai abbiamo le chiavi, tra l'altro. Conosci tutti. Conosciamo tutti. Durante la prima trasferta, quella di Champions League, quella volta abbiamo perso 2-0, poi abbiamo perso 1-0, quindi c'è un tu sei andato due volte, una serie statistica, sì, perché 2-0, 1-0, poi c'è 0-0, chiaro, sembra chiaro. E abbiamo incontrato a notte fonda in un clubino Monchi, che all'epoca lavorava all'Aston Villa. in camicia bianca. Ex Roma. Ex Roma, sì, pelatone in camicia bianca, molto elegante in questo bar di notte assolutamente impresentabile. La vita notturna di Birmingham è molto interessante. Ebbene, quindi insomma sarebbe bello dover tornare per la terza volta a Birmingham, e sarebbe in quel caso la prima volta che l'Aston Villa viene a Bologna. Dovrebbe aprire una rubrica Fio on Tour. Oh, a Birmingham. Fio on Birmingham. Ma sempre a Birmingham. E quindi lo speriamo di poterlo raccontare, di poter mettere una terza tappa di questa cosa. Appunto, la particolarità è che in questi due anni il Bologna ha già giocato due volte a Birmingham, l'Aston Villa non è mai giocato a Bologna, visto che la nuova formula è quella, e quindi insomma c'è anche questa particolarità. Il Lille invece venne a Bologna con annesso parapiglia in via Zamboni. Attenzione, comunque, monitoriamo la situazione, diciamo. C'era l'happy hour. Il movimento ultra in Francia è ancora in alcuni momenti un vero movimento, vero movimento ultra. Abbiamo visto insomma, nel campionato, insomma, ogni tanto si vedono. Aggiungere qualcosa su Sassuolo Bologna o siamo abbastanza completi? Allora, per me migliore in campo del Sassuolo, vabbè, gli occhi addosso ce li ha Tolsvet, che è uno dei giocatori più interessanti di questa annata a Sassuolo, ed è effettivamente un bel giocatore. Sempre da un paio d'anni accostato d'estate al Bologna, uno di quelli che Tolsvet, poi c'è a centrocampo Tolsvet, e però non viene mai. E a me è piaciuto molto Izzes, che invece era uno dei nostri personali consigli al Bologna, centralone dalla pettinatura veramente desueta, fuori dal tempo, e di presenza, di stazza, e fa bene nella partita di ieri, molto ordinato, prova molto bene. Muaremovic come ha giocato? Malino? Normalone. No, perché non due mesi fa era notare. Molto hype. Sì. Oh, questo è fortissimo. Adesso è un po' in calo. Ha impegnato Skorupski nel secondo tempo, però sì, non si è fatto particolarmente notare nei 90 minuti in generale. Guarda, per Muaremovic uno potrebbe anche azzardare una previsione di percorso di carriera alla De Winter, ok? Siamo su quel tipo di talento lì, quel tipo di personalità lì, che butta via, comunque adesso è al Milan, eh? Certo. No? Ok, siamo su quel tipo di giocatore. Se non me lo ricordo male, era nel giovanile Juventus questo qui. Questo sì, sì. Niente male, era insieme alla nigliata dei vari Huisen, che adesso è il centrale del Real Madrid. Parliamo di un buon talento, vediamo come viene su, vediamo come viene. Anche Doig e Volpato sono stati accostati più volte al Bologna, loro sono entrati a partita in corso. Doig, secondo me, interessante in terzino generale. Terzino scozzese, sì, che appunto era stato avvicinato. Terzino di gamba. Di gamba. Volpato è quello della Roma primavera, se non mi sbaglio, che era un trequartista esterno, qualcosa del genere. Non era male, non era male. Poi non lo so, un po' perso, ma non era male. È brevilineo, può fare il centrocampista offensivo, il quinto, l'esterno alto. Bene, bene, bene, insomma questo è quanto. Bene, pronti per la trasferta di Roma, a questo punto tutti pronti lunedì prossimo a raccontare come è andata. Via messaggio ci chiedono, insomma, chiedono un parere sulla partita di Somm. A me Somm non dispiace, devo dire, che è il giocatore che serve nel centrocampo del Bologna, quello che manca, perché a gamba corre e anche in piedi non così maleducati. La particolarità anche del fatto che Italiano l'abbia fatto giocare praticamente subito vuol dire che era una richiesta di Italiano, cioè secondo me era qualcosa che Italiano aveva in testa. Aveva fatto la prima parte della stagione orrenda, tanto per dire, era il peggiore nella media voto del fantacalcio, che non è il massimo delle medie voto, non racconta tutto, però era quello che aveva la media voto peggiore in assoluto di tutta la Serie A. Aveva giocato poco e qualche spezzone, e quindi insomma era poi uscito dal progetto Fiorentina, che non è un gran progetto appunto, quello. Invece qua secondo me ha trovato il posto giusto dove portare cose positive. Non vistoso, molto equilibrato, librato, piedi abbiamo detto abbastanza educati, e finché le linee di passaggio ci sono si vede che è uno che ha da dare. Poi quando, come nel finale di partita, diventa un casino, cioè saltano gli schemi e salta il centrocampo, perché il centrocampo del Bologna viene abbastanza saltato a lancioni nelle ultime partite, una cosa che lì chiaramente come tutti i suoi compagni di reparto va in affanno, ma la prova di Somme anche secondo me è positiva. Esatto, e allora con questo andiamo in pubblicità. Rientriamo in diretta Caffè e Paglia di quest'oggi, è il momento della top 5, un momento importante, un momento che sancisce le 5 cose belle del fine settimana. Io volevo segnalare ai nostri ascoltatori che scriveranno copiosi al 333 180 94 94, che noi siamo l'unica trasmissione sportiva che nelle pause parla di soul music. Soul music, una bella soul music, arriva Willy di solito a controllare e infilarsi dentro allo studio. E sono cose che piacciono soprattutto al nostro regista, il nostro regista è qui anche per questo. Però c'è la top 5 in questo momento e non è la top 5 delle canzoni preferite del nostro regista, ovviamente. Sono le 5 cose belle del fine settimana. E... premio intitolato a Federico Di Marco? Esatto, il premio Federico Di Marco. Stavamo valutando se assegnargli il premio, per il momento no, non gli è stato assegnato, non questa settimana, che ci ha regalato delle emozioni abbastanza così curiose, imprevedibili, bizzarre, bislacche se vuoi. E partiamo dal basso, perché al netto della partita che manca, un grande prodotto da esportazione, il Monday Night della Serie A, cioè, ma tu ti immagini che sei ricco a Singapore, ti annoi, appicci il televisore e ti becchi Cremonese Fiorentina. È così. Cioè, sono coppie che partita si. Partita drammatica, però. Esatto, coppie che si potrebbero lasciare, perché lui vuole vedere Cremonese Fiorentina, lei vuole andare a teatro, tipo. E quindi invece potrebbero succedere. In realtà partita che diventa quasi uno spareggio, quindi non è così male, nel senso che la Cremonese non vince. Stavo dando un'occhiata, non vince dal 2025, da un anno non vince. Ne ha vinte due in fila, una col Bologna e l'altra non mi ricordo con chi, e poi dopo non ha più vinto in campionato, quindi insomma è parecchio che non mica dico per gli amici fiorentini, non è che, cioè, prima o poi vincerà la Cremonese. Non sta invocando la legge della matematica, insomma, no, non lo sta invocando la matematica. No, anche perché la Fiorentina si salva, questo è chiaro. Forza Viola stasera. Sì, senti quest'altro. Ma quale sei Forza Viola? Ma che sta dicendo? Cremonese, lei. Noi ma dobbiamo... tutta la vita. Anche perché ricordiamo che ci ascoltano in Toscana, ma ci ascoltano anche in Lombardia. Esatto, quindi entrambi... Io dico Forza Viola perché la prossima è Fiorentina-Inter. La Fiorentina farà i punti. Spero che vengano stasera. I punti salvezza con voi, perché sarebbe bellissimo, perché la Cremonese con una vittoria porterebbe a 27 i suoi punti e raggiungerebbe il Lecce, insomma diventa un finale sicuramente interessante. E il primo punto è praticamente un non dire gatto, perché noi avevamo già detto che il Verona salutava la Serie A e poi ci abbiamo perso in casa. Abbiamo già detto che il Pisa salutava la Serie A e poi il Pisa ti fa il risultato che non ti aspetti, vincendo 3-1 contro un Cagliari che al netto di un calo delle prestazioni aveva comunque sia una posizione di classifica che una forma complessiva, per cui il risultato che non ti aspetti, specialmente se pensi che il 3-1 finale il Pisa lo matura giocando per lunghi tratti di partita con l'uomo in meno addirittura, e quindi questo è un segnale brutto per il Cagliari che aveva fatto fino adesso un ottimo campionato, si può trovare dentro perché ha 30 punti ancora, non completamente salvo. Dicevamo, ipotizzando una difficile vittoria della Cremonese contro la Fiorentina, porterebbe a 27 punti la Cremonese, 25 la Fiorentina, sono 5 punti, ancora le partite ci sono, non sei salvo, ecco. No, anche se, ripetiamo, il Cagliari ha delle individualità che dovrebbero garantirgli una permanenza in Serie A, non ti dico tranquilla, perché poi la Serie A è quel campionato infimo, c'è un trabocchetto ogni curva che vai a prendere, quindi bisogna stare attenti, però le possibilità che ce la faccia insomma sono alte, insomma. La prossima, per dire, il Cagliari gioca contro il Napoli, quindi partita complessa a Cagliari, che è sempre una partita particolare. Venerdì eroe comunque a sorpresa del turno della partita del Pisa, Antonio Caracciolo, centralone quasi bandiera possiamo dire del Pisa, di da 6 anni che fa la sua prima doppietta in Serie A, giocatore sardo tra l'altro che segna contro il Cagliari, cresciuto nel giovanile dell'Inter, percorso non linearissimo il suo, ma a Pisa ha trovato la sua dimensione, in Serie B ha fatto anche i numeroni. essendo lui un centrale, non ti aspetti sicuramente che faccia doppietta in una partita così importante, che porta 3 punti come le altre e porta il Pisa a 18, comunque in condivisione dell'ultima posizione col Verona. Sì, credo che le possibilità siano abbastanza basse, rimangono basse sia per il Pisa che per il Verona, però un segno di vita. La prossima la gioca col Como, quindi insomma anche lì campo abbastanza complesso da affrontare in questo momento. Nell'imponderabile ci mettiamo anche la riuscita della cura ad Aversa, cioè se Urbano Cairo avesse, consultando gli aruspici, indovinato il momento giusto dell'anno per assumere ad Aversa, perché se tu inizi la stagione con Aversa fai un casino, ma se lo chiami a marzo magari funziona. Esatto, e questo è quello che ha dimostrato per ora il percorso del Torino, che ha vinto 2 partite e una l'ha persa col Napoli, ben giocando nelle 3 partite allenate da D'Aversa dopo una lunga serie di sconfitte e insomma partite. Poi ieri Zapata, mi sa che bella legnata che tira, il gol proprio da centravanti, proprio come Zapata, dovrebbe essere un centenario del gol, se non sbaglio, in Serie A, un abbondante centenario. Bello rivedere Zapata su quei livelli. Il Torino ormai non inganna più nessuno, adesso sì, se queste 2-3 vittorie, ma rimane una situazione di stantia, e questo è il termine per definire la legacy che lascia o per uno che continua ad avere Cairo a Torino. È stantio, cioè sta lì squadra tra l'8° e il 13° posto, adesso non so che cosa sia. 14° posto. Sono lì anni che i tifosi del Toro sono in questo limbo. Va bene, se piace a loro. Sì, sono pari. Infatti a loro non piace. In questo momento sono pari 2 squadre storiche della Serie A, Genoa e Torino, sono entrambe a 33 punti. Sì, Genoa ha vinto Verona. Genoa che ha vinto Verona, appunto, gli aggiunge i 3 punti. Verona possiamo quasi salutarlo? Anche se la matematica ancora non la condanna. Ha già giocato col Bologna, quindi sì, ormai possiamo dirlo. Ha tirato fuori la matta col Bologna. E quindi direi che Pisa e Verona sono giù. Le altre c'è da lottare. C'è da lottare le altre. E come diceva il poeta, cambiando punto in questa top 5, bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà. È come quando è diventato un meme, lo vuoi Bogà. Bogà, questo oggetto misterioso del calcio italiano che ha fatto impazzire il calciomercato in Italia per un periodo di tempo circoscritto, in un modo secondo me abbastanza inspiegabile. Era inspiegabile che fosse protagonista di voci di mercato come lo è stato qualche anno fa. Nizza era ai margini, odiato anche dai tifosi. Poi è andato a Nizza, dove era odiato da tutti, in un anno disgraziato, sciagurato del Nizza, in cui proprio mancavano solo gli scapaccioni dentro al campo, perché poi tutto il resto si è visto, è successo, è accaduto. Va a cercare aria nuova in un'altra piazza di quelle tranquille, serene, con poche responsabilità, tipo la Juve, e è diventato l'acquisto più game changer della sessione di gennaio. È inspiegabile questa cosa, mai accaduta. Eh sì, la Juve che si riprende e vince a Udine, a questo punto è quinta dietro a questo Como dei miracoli. Io sono convinto che alla fine il quarto posto sarà appannaggio della Juve in qualche modo, però che renderebbe anche la conferma di Spalletti definitiva da contratto, anche se mi sembra che si vada verso il prolungamento. Secondo me no, ma per il semplice motivo che la Juventus pagherà verso il karma, una questione molto importante, perché tu non ti puoi presentare vestito in quel modo. Non ti puoi, perché se torniamo sempre lì, non puoi, semplicemente non è accettabile che la Juventus vesta in quella maniera lì. Adesso a parte gli scherzi, l'azzurrino lì, no, è una cosa inguardabile, non c'entra nulla, non c'entra proprio nulla con la squadra, zero, vabbè. Dei due meglio quella rosa. Almeno è caratteristica della squadra, esatto, no. È caratteristica della squadra, però la Juventus sembra finalmente una buona squadra. C'è Spalletti che ha riportato un'idea calcio generale che serviva, insomma, parliamo sempre della Juve. Non mi sembra più forte del Como, ok? In nessun basilare, in nessun settore della squadra, né dalla guida tecnica fino al centravanti. Non c'è un giocatore, magari presi uno alla volta sarebbe carino far parallelo, ma non li vedo così superiori a un Como che tra l'altro c'ha uno spartito tecnico migliore. C'ha un progetto migliore, mi speriamo Fio non si arrabbi, però secondo me tra Como, Roma e Juve se lo meritano di più il Como. Questo può essere, però. Attualmente sì. Attualmente sì. Però io. Però come rose, Simone, adesso. Non lo so. Negli 11 titolari non lo so, Non lo come sai. Rose, andiamole a vedere, cioè, chi è della Juve molto più forte del Como? Facciamo anche solo la fase offensiva. Perché cioè, vabbè, hai scelto il reparto più. Ma perché Butez è peggio di Di Gregorio? Oggi facciamo no, la portiera. Oggi no. No, Di Gregorio non sta facendo una bella stagione, infatti è stato messo. La Juve ha un Baturina a centrocampo? No. No, però teoricamente avrebbe, allora, cioè, avrebbe giocatori tipo Cup Miners. Teoricamente, ma c'è, anche su Cup Miners io non ho ancora capito cosa sia successo, perché questo era un giocatore fantastico. Ma cioè, era veramente un giocatore con la Z Arkmar e con l'Atalanta, era un giocatore veramente fantastico. Non ho capito cosa sia successo a Torino. Potrebbe tornare a Roma da Gasperini per recuperare se stesso. Anche per liberare Remo Freuler. E per liberare. Ma guardate che adesso a partire. Io sono dell'idea che se uno sa giocare a calcio, cioè se tu sai giocare a calcio, ci sai giocare sia che non giochi a calcio, sia in terza categoria che in Champions League. È solo una questione di come vieni parametrato, di come vieni preparato. Ricordiamoci. E il peso della maglia, anche Simone. Ma non dai, lo so, perché la maglia della Juventus non è come quella della Z. Queste cazzate del 67, peso della maglia. Una volta la chiamavano Z. Oh, della Atalanta. Dennis Bergkamp da voi sembrava un coglione, invece era uno dei top fuori classe mondiali. Ma infatti, dove è andato all'Arsenal? Come è andato all'Arsenal? Sì, perché l'Arsenal è una squadretta, cioè, fatemi capire, non ho capito. No, cioè, Henry da noi sembrava un bamboccione. Ha vinto una Coppa UEFA comunque Bergkamp. Quasi da solo, sì. Quasi da solo, ok? Sì. Henry nella Juventus sembra un bamboccione, ok? Quello che voglio dire è che tante volte non si capisce, non si trova la situazione giusta, non riesci a legare con i parametri della nuova società in cui sei. No. Cup Miners è veramente un mistero. Anche perché l'hanno fatto giocare in 5-6 ruoli. Cioè, lui è... arrivava però già con la nomea del giocatore che poteva ricoprire più ruoli, ok? Non vorrei che fosse si sia esagerato proprio su questo, cioè che alla fine tu non gli hai trovato il percorso. È evidente, quando gli cambi tanto ruolo vuol dire che non ce n'è uno in cui lo scegli come il giocatore cardine, è quello che tappa i buchi, fra virgolette, nella Juve. Purtroppo per la Juve McKennie, centravanti, centrocampista, però non è un bel segnale che nella Juve parecchi giocatori debbano tappare i buchi. Esatto, esattamente. Il progetto che manca alla fine, la cooperativa di idraulici, esatto, più per quello che per fare altre cose. Però secondo me alla fine arriverà quarta la Juve, perché va in Champions League e il Como starà fuori e Fio sarà contento. Chi può dirlo? Io comunque non sarei così sicuro. Non dire gatto. Anche perché la Juve non ha lo stesso peso politico che aveva un po' di anni fa, bisogna anche dirlo. Sì, sì, nella quindi, scala dei brand da salvaguardare, da tutelare, non è più quello di punta. Quindi, diciamo. Sai, qui sento dire, alla fine manderanno la Juve, ma non sono proprio convinto. Diciamo che non. Vedremo. Potrebbe. Fio, cosa dici? Ma vedremo, io aspetto i riscontri del campo, anche se il campo tende a essere bugiardo in molti modi diversi. Una partita in cui il campo non ha mentito più di tanto, che ha delle analogie e differenze con la questione Juve Mistero Bogà, la differenza principale è che le due squadre sono in campo con le maglie vere. Questa è una cosa da segnalare. E il mistero in questo caso funziona al contrario, perché il mistero è quello di Leao. La partita è Lazio-Milan in un Olimpico finalmente pieno, gremito di colori bianco-celesti, con le maglie vere, con le maglie vere official. Solo per ieri tornerà subito lo sciopero. L'hanno già annunciato. Sì, sì, solo per ieri. Abbiamo detto già ad inizio puntata, tutto molto bello così. Che c'è da dire? Finalmente una partita disputata, come dice Fio, uno in bianco-azzurro, quell'altro a strisce verticali rosso-nero, niente di difficile, niente di complicato, tutto molto bello. E Mario Gina migliore in campo, ok? Mario Gina migliore in campo. Veramente un muro ieri. È nella nostra top 5. Stamattina leggo di Mario Gina di qua, Mario Gina di là, di un baravan. Questo è un giocatore, ringraziando il cielo, noi qua in redazione ce l'abbiamo come feticcio da quando è un bambino. E mi piace sempre. Compare nel 2022 in top 5. Lo dovevano ancora battezzare. Erano indecise tra Ermenegildo e Mario. Allora ce lo ricordiamo bene. Una cosa che mi ha sempre colpito di lui: questo a 18 anni era capitano del Real Madrid di Castiglia, che è prima, diciamo, il campionato primavera. Ok, dice: beh, sti cazzi, no, perché io sfido di voi a trovare un pisano che è mai stato capitano del Livorno. Perché Mario Gira è catalano. Ora, se tu sei catalano e ti fanno capitano del Real Madrid del Castiglia, beh, tu già devi cominciare a drizzare le reti. C'è qualcosa. Già c'è qualcosa. Questo qua c'aveva un senso dell'anticipo che sembrava Cannavaro quando era ragazzino. E vi ricordate Calafiori quando faceva impazzire a Bulgarelli quelle sgroppate da centrale difensivo a spacca due linee, no? Quei tagli in lama nel burro. Mario Giro lo fa da quando ha 17 anni. È clamoroso che si scopra oggi questo, che è un difensore pazzesco. L'intervento che fa ieri all'85esimo minuto era Tecolo da dietro sul pallone preciso, è un rischio che non ti prendi mai in area di rigore, lo fai solo se sei davvero un grande difensore, e sono molto molto molto contento. Lui è un po' anche un po' duro, uno di quelli che sì, antipatico, in campo come deve essere un difensore per gli avversari è veramente insopportabile, perché è uno che bussa e parla. Cioè, a me piacciono quelli che bussano e basta, e stanno zitti. Invece lui è uno che bussa e parla. E imbruttisce anche. E imbruttisce. Sì, sì, cioè, esatto, a me fa ammattire esattamente per questo tipo qua. Beh, un po' tutta la Lazio comunque ieri ha girato bene. Tavares, vabbè, Isaksen ha fatto gol. Ha giocato bene, la Lazio ha contenuto anche bene il Milan. Sono stati molto bravi a capitalizzare un primo tempo fatto di lancioni, a saltare il centrocampo, a mettere in difficoltà la retroguardia del Milan. Questo spiega anche la valutazione inspiegabilmente molto positiva che ha avuto Daniel Maldini, che ha toccato pochissimi palloni ma ha mosso molto il reparto arretrato del Milan. E sul gol di Isaksen possiamo dire che Maignan non è il miglior Maignan della nostra vita, ma il gol di Isaksen è comunque un bel gol. Oddio, chi è Stupignani che cruzza la terra nel contrasto con Isaksen, che non mi sembra nemmeno un mister bodybuilding, voglio dire. Sia Stupignani che Maignan non sono perfetti. Poi Isaksen concentrato, riesce a controllare bene, cerca l'angolino. Comunque, signori, ditemi quello che volete, Maurizio Sarri è un super allenatore. Sì, in questo casino probabilmente solo Sarri poteva tenere in piedi una squadra. Io che vi devo dire, una Maurizio, squadra che non ha fatto mercato, e addirittura forse a gennaio forse gliel'hanno addirittura indebolita, forse non lo so. Ma Taylor secondo me ieri ha giocato un'ottima partita. Vi sfugge il fatto che Maurizio Sarri era un vicino di casa, cioè vive a 200 metri da casa di mia madre ancora. E giù gli fa bene quell'area marchigiana sulle colline che vedi l'Adriatico. Bravo Maurizione. Bravo. Una stagione incredibile da raccontare. Non sto scherzando, vive proprio lì. Si è fatto anche cacciare fuori alla fine, perché stava vedendo che la squadra era un po' in difficoltà, ha fatto anche un po' di cacciare. Bravo, ha tirato su di sé la catastrofe che incombeva e si è fatto cacciare. E caso Leao che viene sostituito e si lamenta molto. Non lo so, io non ne parlerei neanche più di tanto. Vinto, secondo Lea, me dai, Lea. Una squadra Lea seria lo lascia fuori, perché comunque anche ieri ha giocato una partita indecente, questo super fenomeno. Mai piaciuto, mai piaciuto. Secondo me Leao ha il problema che non è mai stato trattato da giocatore normale, cioè ha sempre stato caricato di aspettative come se fosse sto gran fenomeno, e intanto quelli che erano più scarsi di lui sono diventati più forti di lui perché hanno giocato in contesti meno tossici. Sì, lui non è migliorato. Concordo. Sicuramente in questi anni, da quando è uscito e ha fatto vedere le prime cose, che le cose positive di Leao sono sicuramente interessanti. Il problema è quante volte riesce a farla e che continuità puoi dare in una stagione. C'ha 27 anni e non mi ha dato mai l'idea che sia concentratissimo sul pezzo. Che difficilmente anche arriverà a 28. Che anche, cioè, ognuno nella sua vita poi la gestisce come. Magari lui c'ha il calcio come non primo obiettivo. A me non mi dà l'idea di essere uno mentalizzato solo esclusivamente sulla sua carriera, che è pure giusto, è giovane, si diverte, fa un po' quello che vuole, però cioè, ripeto quello che ho sempre pensato di Leao: sì, è buonino, sì, atleticamente c'è lo strappo, ma alla fine non serve a nulla. Carina questa immagine del giocatore che in realtà non ama il calcio, che però prende un sacco di soldi da questo. C'è chi gioca per vincere, c'è chi gioca per partecipare, c'è chi gioca per guadagnare. Mingo, i giocatori che giocano per vincere non sono tantissimi. Mi piace immaginare Leao che, lo so, ha un hobby, lo so, raccoglie il modellismo statico. Esatto, modellismo. Ma lui non fa calcio solo per comprarsi le navi in bottiglia da fare a casa. Lui poi non è un cantante, vabbè, dire rap, vabbè, lasciamo stare, non è uno che si con Moise, non avevano fatto un pezzo. Esatto. È un distratto, diciamo che non ha il calcio. Come primo obiettivo, che ripeto, non è necessariamente una cosa brutta, attenzione, anzi, ti dirò. Super Mario aveva quella testa. No, lì, se sei Socrates non è brutto, se sei un altro fai le navi in bottiglia alla trap, capisci che... A me mi ha sempre dato l'idea di essere quel tipo di giocatore lì. Può essere, può essere. Va Vabbè, 40 i punti della Lazio, prossimo avversario del Bologna, tra le altre cose. Senza Sarri che è stato espulso. Con Sarri che se la guarderà fumando dalla tribuna stampa, non lo so a questo punto. Dalle colline marchigiane. O dalle colline marchigiane, aggiungendo un tocco di romanticismo. Il Milan poteva trovarsi a meno 5 e invece è a meno 8. È una perdita di punti che si fa particolarmente pesante pensando al risultato della partita già giocata dell'Inter con l'Atalanta, una partita che lascia più di qualche dubbio su come si abitano i big match. Sì, è stato qualche problemino, mi sa che qualcuno l'ha visto anche da vicino questo problemino. Beh ragazzi, il rigore, cioè adesso come si fa a non dare il rigore a Frattesi? È impossibile. Possiamo discutere sul gol dell'Atalanta? Se no, non possiamo discutere perché quello è buono. Però la mano gliel'ha messo. Però va, buono, bene, però, gol. Va bene, però dai, il rigore su Frattesi obiettivamente. Solare. Dopo il rigore che non hanno dato all'Inter, una mano di Ricci, dove l'Inter per un episodio analogo l'anno scorso ci ha perso uno scudetto, quello di Bissek, più o meno siamo lì. Vabbè, dai, vabbè. No, manca palese un rigore su Frattesi perché Scalvini gli dà una scarpata proprio macro, l'Inter va in vantaggio, ma non c'è Lautaro, ma da davanti fanno un po' di casino, sono melliflui, evanescenti, non gli piace troppo tirare in porta, quando tirano in porta, visto che ha farsi perdonare carne secchi, poi bravo, dopo si fa trovare. Bravo, assolutamente, su Thuram reattivissimo, grande portiere, però sì, non è che ha fatto questa grande partita l'Inter, lo devo dire. Eh sì, però è lì, in corsa per il doblete. È in corsa per il doblete perché comunque in Europa è andata come andata, e anche l'Atalanta aveva appena preso 6 gnocchi dal Bayern e fa questa prova che per l'Atalanta è un brodino, perché giocando normale porta a casa un punto pesantissimo contro un'avversaria che comunque è la capolista della serie. Dopo aver giocato appunto col Bayern, secondo me non sempre hanno fatto allenamento col Bayern, Mingo, perché dai, obiettivamente una curiosità per la partita hanno di ritorno subito. Il Bayern Monaco è senza portieri, ma nel vero senso della parola, cioè primo, secondo, terzo e quarto portiere sono out. Probabilmente debutterà un ragazzino americano. Attenzione, non c'è problema. Piccola, mettono in porta Joshua Kimmich. Piccola, un altro che fa 150 ruoli. Bene, parentesi. Però bene. Piccola parentesi della scuola americana dei portieri, anche di questo discorso qua abbiamo parlato tanto, poi magari lo riprendiamo. Ma sembra che potrebbe debuttare il 16enne Prescott. Prescott. Ok, sembra, io vi invito sempre a dare un'occhiata alla squadra. Debutta Prescott, solo 16 anni. Vabbè, 16enne di 1,96 m, alto, che ci porta all'ultimo punto della top 5, alto come la posizione in classifica del Como delle Meraviglie, che fa una bella prestazione, ha il pallino del gioco sempre. Togli quel sarcasmo, so, bisogna parlare bene del Como. No, ero già tornato serio, nonostante questo allone di omertà che si diffonde nelle redazioni del mainstream del racconto dello sport in Italia, quando si dice che per fare qualsiasi Coppa Europea deve fare 180 milioni di mercato in uscita al Como, perché c'è il fair play finanziario, che lo abbiamo tanto voluto contro i cattivi con un sacco di soldi quando erano gli altri, adesso i cattivi con un sacco di soldi sono a Como, vabbè. E Como, diciamo, è leggermente polemico. A me piace così, Fio. Bisogna dirle queste cose, altrimenti poi la gente non le sa e rimane sorpresa e dice: ma come, i cattivi hanno tenuto il Como fuori dalle coppe? No, è una regola che l'avete voluta tutti e poi adesso piangete. No, non va bene. E Como fa una bella partita perché sa giocare a pallone, e è anche costretto a rincorrere per un intervento abbastanza goffo su El Shaarawy, che causa il rigore. Tirato molto bene da Malen, devo dire, molto molto bene. Che nato volta? Da un retropassato sciagurato di Sergi Roberto. Sì. Fanno del casino da quel lato là, in quella fase proprio all'inizio della partita. E poi però a giocare a calcio ci prova molto di più il Como, che trova un bel pareggio e trova anche la superiorità numerica con un'espulsione frutto di scambio di persona. Sì, è stato clamoroso. È sempre il solito discorso che sul secondo giallo il VAR non può intervenire. Che mi sembra una cosa veramente. Ma chi l'ha pensata? Cioè, nel senso, quando hanno stirato le regole. Cioè, quella no. Caso Bastoni Calulu sì, è stato per quello. Perché, sì. No, in realtà sulla sostituzione di persona può intervenire. Ah, ok, dici. Nostra notizia. È un'altra variante. Solo se. Sta cosa del. Che quando uno vede il secondo giallo, dici: io non posso dire niente. Questa è veramente una regola assurda. C'è la tecnologia, usala. Vai una volta di più al VAR. Qual è il problema? Si dice machiavellico ed è una cosa tutta italiana. Cioè, noi dobbiamo sempre infilare qualcosa che vada a complicare una situazione in realtà semplice da leggere. È proprio tipica nostra. È proprio nostra, noi siamo proprio fatti così. Del Como, però, mi piace segnalare l'anthem jacket con cui entra in campo, molto carino, molto molto vintage, con la scritta Como qua, niente male, niente male, niente, era soltanto una cosa estetica. Dopo la superiorità numerica, colui che causa il rigore segna, ribalta il risultato, è 2-1 per il Como. All'esultanza entrano 80 membri dello staff tecnico del Como in campo, perché quello è un qui si può, come dal Artemio Franchi. In altri stati d'Italia non si può fare questa cosa, lo sappiamo, e il Como in questo momento è lì che si gioca un posto in Champions League. Esatto, e abbiamo così concluso la top 5. Entriamo dentro questa terza parte di Caffè Paglia di quest'oggi, quella dedicata al calcio internazionale. Ecco qui che arriva la nostra base del calcio internazionale. Abbiamo prima parlato di un sedicenne che probabilmente giocherà in Champions League e parlerà per il Bayern Monaco, e possiamo parlare di un sedicenne che invece ha esordito in Premier League e ha segnato. No, no, mi dispiace, ma ti devo venire contro, perché abbiamo già parlato di questo ragazzino l'anno scorso, se non mi sbaglio male. Si parla di Max Domann, che all'epoca era 14enne, tipo 15enne, e ce lo aveva segnalato un amico carissimo su un social, quello con la X, ok, quel social lì, e è effettivamente il talento di cui si parlava, giocatore che sembra già fatto e finito e c'ha 16 anni, c'ha veramente una manciata di ragazzi, ma c'ha una sapienza calcistica e lo vedi proprio come sa stare in campo, è veramente raro trovare un giocatore. Cioè a 14 anni era già aggregato alla prima squadra. 15 anni aveva già fatto allenamenti con Arteta e compagnia. Io alla sua età andavo a comprare Blitz e Gin Fizz. Vedi che poi non hai fatto carriera. Lui è nato il 31 dicembre del 2009, sì. Quindi proprio l'ultimo giorno dell'anno. C'eravamo tutti, è un giorno di cui tutti abbiamo ricordi più che lucidi. Quella sera lì ero al Link. Ah sì. Io forse all'estero come impressione. Comunque Domann invece ha segnato il suo primo gol in Premier League e a dire la verità un gol abbastanza semplice, perché il portiere non c'era, quindi facile, però era lì presente, era entrato. Comunque, 16 anni nell'Arsenal, Premier, aveva già esordito in FA Cup contro il Mansfield, che poi è squadra di Serie C, quindi insomma una sfida ovviamente non di altissimo livello. Invece alla seconda presenza va a bollare contro l'Everton, partita niente affatto banale, quella dell'Arsenal in casa contro l'Everton. Nei primi 87 minuti di gioco c'è spazio per tutti, anche per Calafiori che fa lo scorpione per salvare la porta. Clamoroso gesto, clamoroso e studiato, perché se vedete il replay lui guarda e lo fa un po' prima del tiro, lui parte col piede ancora prima che l'attaccante tiri, alza un po' il piede, poi lo colpisce proprio in maniera completa. E comunque sì, partita che l'Arsenal stava soffrendo, perché la sblocca all'89esimo con Gyökeres, quindi insomma, uno che gol lo sa fare. E in pieno recupero arriva il gol di Domann, da calcio d'angolo per gli altri, ripartenza coast to coast nel deserto con Martinelli che lo protegge dall'incursione del centrale avversario che tenta di rimontare. È anche un bel momento di squadra, molto NFL, sì, quello è stata lì, un'azione un po'. Gyökeres qualche giorno fa ha dichiarato di non avere amici. Bene. Quindi se volete scrivergli adesso. Ma adesso Martinelli si prenderà cura anche di lui. Ha detto guarda, no, avrò 3 o 4 amici al massimo. Al massimo, non mi sopporta nessuno. Volevo dire a Gyökeres che va bene così. Volevo dire a Vittorio che col passare degli anni va bene così, fidati. Pochi ma buoni. Fidati, potrebbe essere questo. Passone falso del Manchester City che pareggia in trasferta contro il West Ham, che un po' respira. Respira, giù c'è la battaglia per non retrocedere. L'Arsenal a questo punto ha 9 punti di vantaggio, ha una partita in più rispetto al Manchester City, però insomma 9 punti inizia a essere una cosa importante. Poi sappiamo che è l'Arsenal, quindi. Ai piani bassissimi fa sensazione vedere a 29 il West Ham, a 29 il Nottingham Forest, fa ancora più sensazione vedere a 30 il Tottenham, che non è con le altre, solo perché nel finalissimo della partita di Anfield contro il Liverpool agguanta il pareggio, una partita in cui Tudor fa la cosa più surreale proprio da non lo so, non capisci di calcio, non capisci di persone, forse anche capisci poco di cultura del lavoro, perché mentre va in panchina vede un pelato, gli si presenta, gli stringe la mano pensando che sia Arne Slot, in realtà è uno dello staff del Tottenham suo, suo. Ho visto la andate a cercare la scena che è diventata virale. No, ma vogliamo parlare è una cosa clamorosa. Vogliamo parlare di quello che ha combinato in Champions con il portiere. Sì, il portierino, cioè, il portierino lanciato, hai bruciato un portiere e poi l'hai sostituito dopo due raduate. Per bruciare anche quell'altro, per bruciare anche Vicario, che sì. Lui non mi alzavo neanche a giocare, dicevo no guarda t'arrangi. Comunque il primo punto di Tudor al Tottenham, questo pareggio al 90esimo in casa del Liverpool, quindi insomma una squadra che in questo momento farebbe la Conference, il Liverpool. Con 500 milioni spesi in sede di campagna estiva, poteva comprare direttamente la Conference. Comunque Igor Tudor è uno che in un mondo in cui la gente si mette la sveglia alle 5:20 per andare a lavorare, fa l'allenatore di calcio nel campionato più ricco del mondo e ci è arrivato facendo prima la Juve e l'Olympique di Marsiglia, cioè comunque che è andato bene, Marsiglia andò molto bene, arrivò secondo, poi andò via lui, però lasciò la squadra lui, stesso, stesso procuratore di Juric, sì, forse, però arriva secondo in Francia col Paris Saint Germain, che sta lì, tipo arriva secondo in Germania, vabbè, cioè, infatti molto bene, molto bene, parliamo di due campionati che sono già decisi a settembre. No, prima ancora. Appunto, che il secondo posto comunque non ha un certo significato. Sì, però non c'è veridicità nella carriera di Tudor. Se questo ha allenato già per davvero Lazio, Juventus, Marsiglia, Tottenham, sono tutti nomi pesanti, senza però mai darti la dimostrazione che effettivamente si meritava ad allenarli. Non si capisce come questo trovi sempre un contratto. Io che però, parlando di Premier League, continuo a pensare, bellissima, grossissima, luccichissima, dove però secondo me Pietro Iemmello farebbe presidente. Per me la Premier League è questa qua, è tutto bellissimo, ma è un campionato dove secondo me Pietro Iemmello sarebbe il presidente. Comunque ti segnalo, segnalo così una nota statistica, che c'è una squadra che ha fatto 3 gol e una squadra che ne ha fatti 2, le altre hanno fatto tutte 1 o 0. È un po' di happy decrescita in Premier League. Insomma, iniziamo a guardare forse anche un po' la fase difensiva. Pare che gli allenatori che ascoltano Caffè Paglia, gli allenatori della Premier che ascoltano Caffè Paglia, queste critiche che spesso fa il buon Simone le hanno un po'... C'è stato anche un 2-0-0. Cioè una cosa comunque Arsenal primo, però Manchester City deve recuperare una partita, sì, se non sbaglio, col Crystal Palace, se non sbaglio. Può essere, però rimangono 6 punti, insomma, nel caso di vittoria. Intanto là davanti, a parte l'Arsenal, ha vinto solo il Manchester United, perché alla fine perdono Aston Villa, pareggia il Liverpool e perde anche il Chelsea. Quindi la lotta per l'Europa è abbastanza interessante. Può rientrarci anche il Brentford, che gioca questa sera, in caso di vittoria si unirebbe al gruppo per l'Europa. Brentford sappiamo, progetto interessante. Cambiamo campionato? Andiamo a vedere qualcos'altro? Vogliamo andare alla Liga? Cosa è successo in Liga? Il Barça mi sa che è successo una tripletta meravigliosa di Rafinha. Che giocatore! Se non è Lamine Yamal è Rafinha, se non è Rafinha è Ferran Torres, se non è Ferran Torres è qualche dodicenne che il Barcellona mette in campo. Che deve dire la Liga, il solito campionato, sembra che quest'anno il Barça ce n'abbia più 4 punti rispetto al Real Madrid, però è ancora aperto, ancora aperto, dove si segnala un Reale che anche lui mi sa che se ne passa col numero di gol, dove Arda Güler segna da Istanbul praticamente, che era in vacanza a casa sua di Istanbul e ha detto adesso scaglio sto pallone nella porta del Bernabeu, il pallone attraversa non so quante migliaia di chilometri e alla fine si sa che lui non esulta neanche, proprio tranquillo, era il 4-1, in effetti contava poco contro l'Elche, 5-2 il Barcellona, 4-1 il Real Madrid, quindi corrono di fianco con 4 punti di vantaggio per il Barcellona, che rimane favorito al terzo posto, campionato degli altri, perché il distacco è già veramente ampio, e rimane l'Atletico Madrid, che è stato protagonista della sfida contro il Tottenham citata prima. Atletico Madrid che vince 1-0 contro il Getafe con un episodio abbastanza interessante. A un certo punto Sorloth ribalta tale Abkar e non si capisce cosa sia accaduto in quel frangente, e c'è bisogno della VAR per vedere che l'Abkar aveva toccato i maroni a Sorlot. E non c'è sanzione per la reazione scomposta di Sorlot, cioè rosso diretto per il marcatore impudico, diciamo. Esatto. È una, così, una roba che ci ricorda Necruzzi Inzaghi di quella volta. È vero, è vero. Tra l'altro, tornando al Barcellona, è stato rieletto Laporta come presidente. Quindi grande personaggio del mondo blaugrana. Beh, un delinquente che non senza fine, è un pazzo scatenato. Che comandano i delinquenti al mondo, non so se te ne sei accorto. No, ma sono sicuro, però parliamo di un vero delinquente a capo di una, di una squadra stato, perché di questo si tratta, il Barcellona è una squadra stato, e non mi piace mai quando vengono solo due, o loro, si ti fa sempre per insomma, un Valencia, un Siviglia quasi, un Athletic Bilbao, che ne so. Sì, sono diventati insomma. Beh, le squadre che vincono diventano antipatiche. Esatto. Esatto. No, non è vero che vincono, cioè fanno. Athletic Bilbao perde malissimo 3-0 a Girona e derby basco tra le altre due, Real Sociedad la meglio per 3-1 sullo Osasuna. Stacca il gruppo delle, delle basche, Real Sociedad si infila al 38 punti al settimo posto, a 3 punti dal Celta di Vigo che sarebbe in Europa. Nella Real Sociedad c'è quello che potrebbe essere dato, dico soprattutto a te, un nuovo Mario Gira, si chiama John Martin. John Martin 18-19 anni, eh. Martin, hai ragione. Perché scusa, a differenza del nome è spagnolo. Hai ragione. John Martin, niente male anche lui, giovane. E allora parliamo di giovani e cambiamo dalla Liga, passiamo alla Bundesliga, perché c'è un altro ragazzo di 18, non di 16 come gli altri, che ha segnato il, credo, il suo primo gol in Bundesliga. Stiamo parlando di Luca Reggiani. Si è portato anche a casa il titolo di MVP della partita, è il terzo italiano giovanissimo che il Borussia Dortmund fa debuttare nel giro di un paio di settimane. Uno ha debuttato in Coppa contro di voi, Filippo Mane, che insieme a Chiarodia, che poi è andato al, al Borussia Mönchengladbach, erano insieme al, al Borussia Dortmund, un altro bel centrale difensivo. Reggiani anche lui è un centrale difensivo 18enne, Samuel Ignazio aveva già debuttato invece nella partita precedente. Insomma, ripeto, il Borussia Dortmund ci tiene, cresce i nostri ragazzi meglio di quanto riusciamo a fare. Assolutamente sì, a fare noi. È la quarta presenza in Bundesliga quest'anno e è arrivato il primo gol. La vera notizia di questo turno, Mingone, è che il Bayern Monaco non ha vinto, ha pareggiato all'Everkusen 1-1 e il Borussia Dortmund ha pure approfittato, ha vinto 2-0 contro l'Augsburg. Rimangono comunque 9 punti di distacco. Sì, sono tanti e quindi insomma Reggiani ha fatto gol in una partita importante, se non altro. È interessante la partita del Bayern perché con l'Atalanta sul 6-0, cioè mentre erano lì che facevano Medina, hanno iniziato a fare i sornioni sui cartellini per spendersi la diffida. Kimmich. Sì, non solo, anche Olisee, ma i furbetti. E siccome è una ruota che gira, in campionato finiscono in 9. Pareggiano però 1-1. 1-1 con la Bayern Arena. Grande stadio, se vi capita tra l'altro di passare da quelle parti, andatevi a vedere il Bayern Leverkusen e andatevi a vedere lo stadio, ma è molto molto bello. Di Leverkusen, esatto, che appunto pareggia 1-1 e ferma la corsa del Bayern Monaco. Leverkusen che quest'anno non sta andando particolarmente bene, è sesta, un punto anche per il mio Colonia che rimane comunque nella parte bassa della classifica a 25 punti, in questo momento sarebbe salvo, ma il San Paoli va allo spareggio con 24, quindi sono ancora molto molto vicini. Bayern Leverkusen è sesta, però la settima l'Eintracht Francoforte a 7 punti dietro, quindi direi che insomma l'Europa abbastanza sicura. Un passaggio in Europa lo farà, vedremo di che colore. A questo punto andiamo in Ligue 1, che comunque è interessante. Il Paris Saint-Germain non ha giocato, quindi non ha né vinto né perso e né pareggiato, e quindi possiamo andare a vedere, però credo che Lens abbia perso. Ha perso 2-1 con l'Orient e quindi ha perso l'opportunità. Perso male anche. Esatto, l'opportunità di sorpassare il Paris Saint-Germain che non giocava, quindi c'era la possibilità di passare una notte in prima posizione. Invece rimane a un punto, campionato sicuramente aperto, però non approfitta della possibilità. Vince il Marsiglia con l'Auxerre, il Nizza citato prima, ex squadra di Boga, vince 2-0 con Angers, e lo Strasburgo pareggia col Paris FC che vede ancora titolare Ciro Immobile, e infatti 0-0. 0-0, non ha ancora fatto però punto pesante, in ottica salvezza per il Paris FC. Non ha ancora fatto un tiro, credo, Immobile, in questo campionato, Simone, in questa stagione. Simone Fanò con la testa Volevo dire a Ciro, se proprio devi continuare a giocare, magari in Serie C, no? Può essere che sia un attimino più la tua. Oh, c'è Insigne che è sceso a pescare. È andato adesso, ragazzi, però è andato a giocare a Parigi. Con tutto il rispetto che ho per le città della Serie C, dai, insomma, è un altro contesto. Sei nella Ligue 1 francese, ti giochi gli ultimi, pagato probabilmente meglio in Serie C. Poi se va male, andrà a giocare in B, in C. La sappiamo tutti la gag di Verratti che quando ha firmato per il PSG aveva letto PSG e pensava a Porto San Giorgio. È vero. Quella è la situazione. Insigne che comunque ha detto a Ciro: noi ti aspettiamo. Al Pescara, siamo Pescara, siamo vicini, sì, ma non, ci sopportiamo, sì, ma non è Jonathan Proculo, hai capito? Che c'è, ci rimuove, continuare a provare il piacere di gonfiare una rete, visto che a quanto pare a certi livelli non può più farlo, perché sono squadre che hanno bisogno di disperato bisogno di qualcuno. Cioè, tu mi dici che Immobile in un Pisa, per dirti, per citare una squadra a caso, non fa 7-8 gol? No, secondo me non li fa. Non li fa. Secondo me ha dato. Poi secondo me è proprio un giocatore che ha dato tutto quello che poteva. Pescara, io Pescara. Pescara con Insigne potrebbe fare cose interessanti. Per quanto riguarda i campionati, siamo arrivati più o meno alle abbiamo letti tutti. Abbiamo seguito un po' la storia del Hearts of Midlothian. Purtroppo ha perso contro il Kilmarnock, che è penultimo del campionato. E il Celtic ha vinto col Motherwell. Quindi in questo momento sono solo due i punti di vantaggio dell'Hearts of Midlothian sul Celtic e tre sul Rangers, sono proprio lì, sono in dirittura d'arrivo, però ancora in vantaggio di due punti. Sappiamo che da 40 anni non esce da Glasgow lo scudetto scozzese. Abbiamo spazio anche per un po' di Serie B, perché le cose si stanno facendo interessanti anche a quel livello. Li hai seguito qualche partita? Allora, seguite per intero no, perché sempre si weekend lavorativi maledetti, però c'è da segnalare il nome di Rao. Dici, chi è Rao? È un ragazzino del Napoli, in prestito al Napoli, però in Serie B, quindi parliamo del Bari, naturalmente. Bari che travolge la Reggiana per 4-0, Rao fatta a casa una doppietta bellissima con questo destro affilatissimo, passa al quinto gol in campionato, se non mi ricordo male. Sai, quella... esterno d'attacco sottopunta, non si capisce ancora bene che cos'è, però è davvero un bel giocatore, molto tecnico, molto rapido, e andava segnalato. Va segnalato ancora di nuovo un allenatore fantastico che aveva già dimostrato di essere bravo con i ragazzi a livello primaverile con la sua magnifica Fiorentina. Alberto Aquilani a Catanzaro continua a mostrare di saper fare il lavoro dell'allenatore. Bella vittoria in trasferta a Padova, bravissimo, con una maglia nera, così verdi, non ho capito bene, però non era malissimo, anche se non c'entra niente con Catanzaro. E che c'è da dire, è un allenatore che sa fare il mix giusto dei giovani, sa trattare con i ragazzi, sa trattare con il giocatore più esperto. Ieri Iemmello dipinge calcio, letteralmente, lo vedi che conquista palla a centrocampo, colla al solo, gesto delle mani, pilota, telecomanda i compagni e forse anche un po' gli avversari, perché li induce a fare movimenti che in realtà sono a vuoto. E Catanzaro, insomma, se la porta a casa. Si segnala anche un Monza in formissima, che mi sembra che ieri triti Palermo. Ha tritato il Palermo sabato. Ha tritato il Palermo, esatto. E insomma, Palermo che veniva anche loro da un gran bel periodo col capocannoniere poi Giampaolo. C'è il Frosinone che credo che continui a vincere, mi sembra che abbia vinto anche. Pareggiato 2-2 a Cesena, e la capolista il Venezia invece 0-0 a Genova contro la Samp. Allora, attenzione al Cesena, perché è partita bellissima tra Cesena e Frosinone, doppietta di Corazza, giocatore rossoblu che è provato da terzino, non ha i movimenti del difensore, però è un bel quinto. Fio, se non sbaglio, lui segnò proprio contro il Cesena in Coppa Italia. L'esordio. L'ultima partita di Marco Arnautovic. Per poi è venuto all'Inter, al Bologna, in Coppa Italia. La prima partita di Coppa Italia segnò lui all'esordio contro il Cesena. Ricordo bene, non sono ancora rincoglionito. No, non del tutto. Aspetta, cioè, un po' sì, però non del tutto. Ci arriverò. Bravo, bravo. E comunque il punto costa inspiegabilmente la panchina all'allenatore del Cesena, anche se il Cesena è in zona playoff, ancora adesso non è impelagato in brutte classifiche, che viene sostituito da Ashley Cole. E uno dice, ma perché Ashley Cole? Poi vai a vedere il Cesena. Il Cesena c'ha una crepa di 5 milioni di euro a bilancio ed è di proprietà di un fondo del Delaware. Il Delaware è lo stato americano senza tassazione sulle SRL, solo sull'utile. sulla società in sé, e quindi è un paradiso fiscale di fatto, e quindi probabilmente i veri padroni oscuri di questo fondo di investimento cercano sponsor attraverso la figura molto premier di Ashley Cole. Ashley Cole che vanta anche 11 presenze da calciatore nella Roma, anche se mi dicono che a Roma aveva un po' di distrazioni Ashley Cole. E l'avevo preso al fantacalcio, era lì che girava quel monopattino tipo Hummels, era... Sì, abbastanza. Parliamo della stagione 2014-2015. Necessera invece segnaliamo anche la crescita esponenziale di un ragazzo che nel giro dell'Under 21, Tommaso Berti, anche lui faceva parte di quella magnifica Fiorentina di Alberto Aquilani, e ti dà la misura di quanto un allenatore possa incidere sulle carriere, sullo sviluppo delle carriere dei suoi ragazzi. E si segnala ancora una grande partita di Favasulli, sempre nel Catanzaro. Insomma, è un bel campionato, è uno di quei campionati in cui se vuoi vedere ancora qualcosa di interessante te ne dà la possibilità. Tra l'altro ancora abbastanza aperto, perché il primo posto sì è del Venezia a 64 punti, il Monza 63, sono due quelle che vanno su direttamente, diciamo vengono promosse direttamente, ma il Frosinone a 59, quindi, e il Palermo a 57, quindi sono ancora con la possibilità di ribaltare le situazioni. Ottima la stagione del Catanzaro, che è a 52 punti ed è già blindato nella zona playoff. C'è anche il ritorno di Ballardini, il nostro mister Ballardini, la cui carriera decollò proprio con i nostri colori, la vince ancora, è un buon periodo per l'Avellino. Ieri non sono riuscito a vedere bene le immagini, credo si sia un gol in rovesciata se non ho capito bene, e quindi anche a D'Avellino il suo paio di Ray-Ban o quello che indossa adesso sembra funzionare bene, funziona tutto dappertutto. E abbiamo 30 secondi per parlare della San Benedettese, che perde con il Campobasso 1-0 in casa. Ormai la Riviera ha vinto, decima sconfitta stagionale, e di cui 9 per 1-0 in casa, e non so più che dire. La squadra è scarsa, lo abbiamo capito, il problema è che qua credo che abbiamo a che fare con delle personalità scarse, perché non è possibile che tu c'hai la miglior tifoseria di tutta la Serie C, forse anche della Serie B e qualcosa di Serie A, e ti caghi Sassuolo, la mia Nord è molto meglio della tua, ok? Potremmo allungare il discorso entrando in particolari, ma la mia Nord è più bella della tua. Se parliamo di curva di Inter, in questo periodo è ai minimi storici, però ottima tifoseria sicuramente. Allora, no, voglio fare il parallelo: se tu in campo ogni domenica in Serie C entri con 5-6 mila persone che tifano per te, non è comune in Serie C trovassi numeri, e invece di caricarti tu che fai? Ti caghi addosso, ti caghi sotto. E l'ha detto proprio il mister ha parlato proprio di giocatori purtroppo non all'altezza sia tecnicamente che diciamo di personalità per calcare la Serie C e per calcare un campo che ti propone sempre 5-6 mila, insomma, appassionati che ci sono sempre. Ma raga, facciamo cagare, la speranza sono i play-out contro il Bra. Ok, bene, questa è la situazione. Sapete se che andrà a Terni contro la Ternana. Bella sfida sugli spalti. Cosa avevate offerto ai tifosi del Bra in trasferta a San Benedetto? Pesce fritto, erano in 10, tipo. Erano 11, ero presente pure allo stadio, sai, per questo. Tipo carrettate di pesce fritto, attenzione, senza limone, perché quello solo se arrivi da Ascoli. E soprattutto con anche dentro la frittura con gli spini, capito? Perché non si mangia soltanto il mollame, che anche quello va soltanto a quelli là che stanno andando in servizi, figli. Stanno volando, ragazzi. C'è l'Arezzo comunque davanti. C'è l'Arezzo davanti, ma questi stanno volando, e d'altronde hanno tirato su una bella squadra con un grandissimo allenatore di Serie C. Ho visto un adesivo in giro attaccato ad un palo. C'era scritto: io era bianco, era nero con la scritta bianca: io porto l'Ascoli, tu porto d'Ascoli. Ma certo, ce l'aveva con voi? Ma sì, ma per il semplice fatto che la Samba è rinata sulle ceneri, sul marchio registrato del Porto d'Ascoli, diventato San Benedettese. E non c'è nulla di cui vergognarsi. Ultima parte di questo Caffè Paglia di quest'oggi, iniziano già a sentirsi i motori. Oh, non abbiamo preso la parte elettrica oggi manca. Quindi siamo alla vecchia. Siamo tornati alla vecchia Formula 1, siamo tornati al 1955, quando un pilota italiano lottava per il mondiale, anzi se lo vinceva, l'ultimo italiano. E speriamo che vada così anche quest'anno. Che se lo vinceva, partiamo già con la vittoria di un italiano. È una novità per quanto riguarda le nostre trasmissioni di Caffè e Paglia, no? La favola di Antonelli, cita la Gazzetta che oggi è a disposizione della redazione di Caffè Paglia. Chiediamo scusa per questo, non succederà mai più. Chiediamo scusa. Un grande Kimi, non vinceva un italiano da il mondiale del 2006. Sì, ma era Fisichella? L'ultimo Fisichella, era Fisichella. Giancarlo Fisichella. A salire sul podio, dici? No, a vincere. Sì, la a vincere, vincere, sì, sì. A vincere una gara, credo che fosse poi, tra l'altro, più o meno in questo periodo dell'anno. Cioè, quindi sono... Beh, si vede che è una stagione buona per no? La primavera alle porte, quindi stimola. Però c'è anche da dire che è giovanissimo ed è di Bologna, che è un'altra, diciamo, aggiungiamo dei meriti, no? Perché è un nostro concittadino, è anche uno che non se la tira. E probabilmente è stata questa la scelta della Ferrari quando a 8 anni, come mi raccontava Mingo prima, visto Antonelli che girava sui kart, Minardi l'aveva adocchiato e andò a Maranello e disse: oh, qua c'è uno che secondo me ha una promessa. Vabbè, non abita a Monte Carlo, non è amico dell'amministratore delegato. Vabbè, ma che vuoi dire, Leclerc è forte, sì sì, però sai, c'è una serie di caratteristiche che però in casa Fiat parlo 8 anni, però cioè, dice sta, è presto, ci sta che puoi fare errori di valutazione, però non anni. È stato fatto, infatti la Mercedes l'ha subito preso a 8 anni e oggi abbiamo del resto Toto Wolff ieri era entusiasta, se vinceva Russell lo era meno, ma era entusiasta soprattutto per il risultato che Andrea Kimi Antonelli, perché ricordiamo il suo nome vero è Andrea Antonelli, Kimi è un soprannome che gli è stato dato così per forse per dare un tocco di diciamo di americanizzazione, no? Di finlandesizzazione, di finlandesizzazione. Kimi Raikkonen. Sì, oltretutto i finlandesi come guidavano, adesso è un po' che non sono pervenuti, però erano dei maestri della guida. Quindi sì, chapeau per Antonelli che praticamente ieri ha dominato il Gran Premio della Cina. C'è anche da dire che c'ha anche un mezzo sotto al sedere che gli consente queste cose, quindi chapeau anche alla Mercedes che comunque c'ha un maghetto nel motore, probabilmente, perché non ce n'è per nessuno, perché secondo me oggi sono meno evidenti, ma i distacchi rispetto all'Australia sono anche maggiori rispetto ai non piloti Mercedes, perché comunque è finito con Kimi Antonelli primo, secondo Russell e il grande Lewis Hamilton, che probabilmente già la settimana scorsa lo dicevamo, su questa tipologia di macchina che Verstappen odia, abbiamo anche visto come è andato Verstappen, ma ne parliamo dopo, e secondo me, perché lui è un precisino, è molto tecnico, ci tiene alle virgole, e parlo di Hamilton, e secondo me si trova bene su questa nuova modalità di Formula 1, che è una Formula 1 di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, con questo grosso incremento dell'elettrico, con una guida che deve badare più a caricare le batterie che a fare le curve a radicchio, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, però nella gara di ieri appunto Hamilton si è dimostrato, diciamo, c'è stato questo duello che la settimana scorsa era tra Leclerc e Russell, perché poi questa macchina, le caratteristiche di questa tipologia di macchina dà la possibilità di aumentare i sorpassi. Mi sembra che c'è stato sull'Australia ci sia stato una sorta di comparazione tra il Gran Premio dell'anno precedente, dove c'erano stati tipo 40 sorpassi, e in Australia c'erano stati 120. Cioè, con anche la polemica annessa da Max Verstappen, ok, bravi, quello però è Mario Kart. Esatto. E quindi sì, infatti, quindi diciamo che man mano che i piloti cominciano ad adeguarsi a questa nuova modalità di guida, è chiaro che chi si più adegua più ha delle possibilità. C'è da dire che Kimi Antonelli l'ha imbroccata subito, perché già anche nel scorso Gran Premio, che è arrivato secondo, ma però abbiamo notato che si trovava benissimo su questa Mercedes, anche se può aver fatto degli errori come ne ha fatti anche ieri, perché praticamente quasi a fine Gran Premio ha fatto quasi un dritto con una frenata, un blocco delle ruote, ma il distacco rispetto a Russell era talmente tanto che ha mantenuto la prima posizione. Cosa diversa è andata Leclerc, che ha avuto un errore del genere e che aveva più di un secondo di vantaggio su Hamilton, e in quel momento Leclerc si trovava in terza posizione e ne ha approfittato Hamilton, che comunque devo dire che nella gara di ieri è rinato, risorto. Non so quale può essere la tua opinione. Allora, diciamo che nella prevedibilità l'imprevisto c'è sempre, e si è arrivati in Cina dicendo la Ferrari ha l'aerodinamica migliore, la partenza migliore, la Macarena, il rettilineo è lungo, la Mercedes ha la Power Unit che dà un giro a tutti, però l'imprevisto è che solo la Mercedes viaggia con la Mercedes, la McLaren non riesce neanche a partire. Sì, perché sembra che gli abbiano chiesto il software che utilizzano. Parlo della McLaren, che ieri si è ritirata, non ha neanche partecipato al Gran Premio, nonostante che poi nella sprint fosse arrivata terza, no? Come posizione. Primo è stato Kimi Antonelli, è arrivato secondo, prima è stato Russell. Stiamo parlando della sprint che c'è stata sabato, una sprint che io poi non vedo tutto questo interesse, no? Anche perché vedo che poi viene un po' relegata e dimenticata, no? Il giorno dopo già non se ne parla più della sprint, mentre delle gare, quelle vere e proprie, qualcosa in memoria rimane. La McLaren era arrivata al terzo podio con Norris, campione del mondo. Nella gara di ieri proprio non si è presentata, problemi, bug nel software, cioè praticamente la Mercedes ha dato un software alla McLaren con dei bug, pare, si dice, questo io non sono certo di quello che sto affermando. Il pezzotto gli ha dato. Gli ha dato un pezzotto, cioè, come dire, volete il software che usiamo? Eccolo. E si sono fidati e in effetti poi si sono ritirati. Sì, i protagonisti della scorsa stagione in questo momento sono bassi opachi in classifica, molto bassi, perché sì. Piastri ancora, cioè, ha fatto dei punti forse nella sprint? Non può essere, perché qualche punto ce l'ha, non ho capito come ha fatto, perché in Australia è uscito il giro di ricognizione, ha fatto sesto nella sprint in Cina, sì. E quindi ha preso quei punti lì e basta. Non trovo la classifica della sprint, perché mai è stata archiviata, no? Paghi, lo vedi, non so, però sì. E l'altro è Verstappen, io cioè praticamente è uscito lesto a un certo punto, mi sembra al 40° giro o tra il 35° e il 40°, con dei problemi probabilmente, perché la sua macchina cominciava a perdere posizioni, era sesto in quel momento, ed è uscito di scena e sembra che non se ne preoccupi nessuno di questo fatto, no? Cioè proprio viene, come dire, viene trattato come un Hülkenberg, neanche, cioè... In questo momento Verstappen ha 8 punti in classifica mondiale ed è dietro a Gasly. Vedi? Ecco, per dire. Quindi si trova a lottare con Gasly, con dei piloti con cui non ha mai lottato, diciamo, in certe posizioni. E quindi c'è un problema sicuramente della sua Red Bull, però abbiamo la Toro Rosso, quell'altra, che comunque è arrivata bene, no? Adesso è andata a punti, non so se è stata doppiata, non mi ricordo, so che ci avevo guardato ieri, però diciamo sembra che vada meglio la Toro Rosso che la Red Bull. Ajar, ha avuto qualche problema, comunque ogni tanto qualche spunto Ajar sembra che ce l'abbia. Verstappen proprio pare che non si trovi assolutamente con questa nuova modalità di guida, cioè di guidare queste auto che hanno queste caratteristiche completamente diverse da quelle precedenti. In effetti, adesso che ha del tempo, si andrà a fare una 24 ore, che non so se è del Nürburgring o di dove, però andrà a correre con le classiche auto di una volta. Che vanno... Ogni tanto lui ci va, no? Ci andava anche l'anno scorso, non è che aveva bisogno, perché non era contento della Formula 1. Quest'anno, diciamo, forse un motivo in più per andare a fare quelle corse lì, e quindi Verstappen non pervenuto proprio. Io ho anche notato che mentre si ritirava, parlo della telecronaca di Sky, loro parlavano di Kimi Antonelli, i conduttori. C'era Verstappen che usciva, perdeva posizioni continuamente, poi a un certo punto esce, e loro stavano parlando ancora di Kimi Antonelli, che era in testa. Sicuramente il personaggio italiano Kimi Antonelli attira molto le attenzioni, ma in quel momento c'era un grande campione che per un pelo l'anno scorso non ha vinto il titolo, che stava uscendo di pista, nel senso che stava ritirandosi dalla corsa. Quindi questo è per dire come dalle stelle alle stalle, no? è un attimo. Comunque sì, avrà tempo per dedicarsi alle 24 ore, quella del Nürburgring è a maggio, il buon Max, perché causa questioni internazionali un pelo più complesse di questa pur interessante stagione di Formula 1, iniziano a saltare dei gran premi. Ad aprile non c'è neanche una gara, perché c'erano Bahrain e Arabia Saudita. Che saltano. Infatti adesso c'è già una discussione che dice siccome il tempo per il regolamento diceva che da giugno sarebbero entrate delle novità, no? Nel senso che probabilmente la Mercedes poteva perdere quella furbata che ha nel motore, non sappiamo poi se è veramente così, e col fatto che mancano due gran premi, Russell ieri in un'intervista ha detto che questi nuovi regolamenti entreranno a luglio, e l'intervistatrice ha detto a giugno. Ah, lui non è luglio, no, è a giugno. E secondo me stanno chiedendo di posticipare, no? Perché mancano due gran premi, come dire, la conta del tempo lì si fa in base anche alle cadenze dei gran premi. Ne mancano due, quindi cosa si fa? Invece che giugno si va a luglio. Io ho pensato, no, a questa cosa. Vedremo poi come andranno le cose, perché poi se ne discuterà. Penso che il prossimo però sia in Giappone, giusto? Cioè, prima il Giappone, e quello sarà interessante per vedere quanto è una gran macchina la Mercedes e quanto è una gran power unit la power unit Mercedes, perché la power unit Mercedes è comune ad altri team, a McLaren, ad Alpine, e c'è anche la Williams. E bisogna vedere lì come andrà, perché in questo momento l'unica ad avere dei grandi vantaggi è Mercedes stessa. Sì, secondo me si sono tenuti il segreto nel taschino. Però ieri Sainz è arrivato, ad esempio, doppiato, perché mi sa che dal quinto in poi erano tutti doppiati, e questo per dire. La Ferrari, vediamo, perché Ferrari ha questo grande spunto in partenza. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ha un turbo più piccolo che gli consente probabilmente di avere questi exploit, no, in partenza, però poi è arrivata con parecchi secondi di ritardo rispetto al secondo, sto parlando di Hamilton, e quindi ci vuole ancora qualcosa. L'ala Macarena, che sembrava l'asso nella manica, così è stato presentato subito dopo il Gran Premio di Australia, e io sentivo il commentatore: ah, adesso arriva l'ala Macarena, che sarà quella che va a colmare le problematiche, le differenze con Mercedes, e pare che non funzioni. A parte che è lenta, no, questo giro, quindi mentre gira l'ala Macarena, ricordiamo che a differenza delle altre che aprono e chiudono, questa ha una rotazione, la rotazione è lenta, e penso anche che sia difficile quando vai a 300 all'ora. No, ci sarà una resistenza dell'aria, no? Cosa ci metti? E già la Macarena è una brutta canzone, già... fatta pure lenta, più lenta, secondo me è terribile. Quindi questo asso nella manica, che pareva diciamo il colpaccio di Ferrari al momento è stata accantonata. Non so se gli metteranno su un motoriduttore adeguato per la rotazione, però è chiaro che al momento questa innovazione che sembrava essere entrare proprio nel Gran Premio di Cina è andata male, è andata malissimo, anche perché di solito quando tu provi una cosa nuova la monti solo su un'auto, ne hai due, no, di auto. Invece entrambe le Ferrari nelle prove libere avevano la Macarena, quasi, cioè proprio dire, proprio un errore di valutazione. Tipico da Ferrari, ormai non ci meravigliamo. Comunque al momento, perché ferrarista ci si accontenta del fatto di essere al momento la seconda forza in campo, anche se i distacchi sono notevoli, cioè uno può prendersi una birra nel frattempo e arriva secondo, cioè terzo in questo caso, però sono soddisfazioni, insomma ho visto... sicuramente rispetto a tutto il resto del circus Ferrari sicuramente l'ha indovinata di più. Esatto. Questo, il problema è che c'è sempre una che la indovina più degli altri come l'anno scorso la McLaren, sì. Sì, questo ormai, sembra la Mercedes, ormai è una tradizione, ecco. Ecco, questo insomma è la cosa che renderebbe un po' più divertente se ci fossero due o tre scuderie in grado di giocarsi la vittoria finale. Vedremo a Suzuka in Giappone se ci sarà qualche novità. Dobbiamo lasciare quasi la trasmissione, non c'erano le moto. La Virtus ha vinto una grande partita contro Milano, purtroppo non abbiamo tempo. La vinta di 10, facile. Gli mancavano i portatori di palla, mancavano i playmaker, però lì c'è un Ferrari che va molto bene. E chi è? È un giocatore che si chiama Ferrari. Ah sì? Giovane. No, cioè, da virtusino ne so molto. Esatto, ti vedo. Vengo qua io a imparare come vanno le cose. Ti prepari qui. Solito ne parlate di più quando perde. Sì. Però io sentivo ieri qualche servizio su ITV, penso, e si erano tutti disperati perché mancavano i playmaker. E invece... Però c'era qualcuno che diceva potrebbe essere un'opportunità. Sì, da un lato, soprattutto la Virtus ha un ottimo allenatore che parla poco e si lamenta poco degli infortuni, di cose del genere, e cerca sempre di mettere i giocatori in grado di poter giocare bene anche in un ruolo non loro. È molto bravo in questo, e ieri con Milano insomma si è vista la differenza di una squadra vera e un'altra che ha fatto una serie di palle perse, situazioni proprio che... Dalla Milano di una volta. Sì, ma veramente. Ma secondo me Milano non è più quella di una volta, cioè parlo del... Spende tanti soldi come una volta, però evidentemente c'è qualcosa che non quaglia. Non riescono bene a rendere i giocatori, e quindi questo. La Fortitudo invece non ha giocato. E questa è una bella notizia. Non abbiamo perso, questo è sicuro. Ma no, dai. Almeno non l'abbiamo perso. C'è invece. Ma chi c'era al Palazzo dello Sport sabato? Quando è stato? Che sono passato di lì, c'era polizia fuori, le luci accese. Polizia. Forse la nazionale femminile di basket, può essere che abbia giocato. Non lo so, no, io pensavo fosse la Fortitudo. No, Fortitudo non ha giocato. Ottimo invece la nazionale di baseball, non abbiamo tempo per parlarne, vedremo se riuscirà a superare la semifinale del World Classic del baseball, il mondiale del baseball, dove ci sono tutti i giocatori anche delle Major League, insomma sta facendo grandi cose. Bene. Vedremo. Allora dobbiamo salutare purtroppo. La prossima settimana ci risentiamo. Ciao. Lunedì. Ciao. 10:30.